Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, dopo quella di ieri, oggi sono rose e fiori sui mercati, nel senso che Milano è ancora negativa e questo sorprende un po' perché altre borse europee stanno recuperando meglio. È negativa di un 1,3% sull'S&P MIB e anche dello 0,80 sul MIB. Qual è il motivo? Il motivo si chiama soprattutto Unicredit. Si stanno abbattendo anche oggi le vendite sul titolo, meno 11,6%, sospeso per eccesso di ribasso, ultimo prezzo a 2,63 euro, e questo è il vero motivo. Poi va male anche Seat Pagine Gialle, meno 4,60, Monte dei Paschi meno 4,1, Finmeccanica meno 3,1, Telecom meno 2,80, Fiat meno 2,7 e Luxottica 2,5 punti. Però se non ci fosse Unicredit, probabilmente, se non ci fosse l'effetto su Unicredit, probabilmente anche Milano sarebbe positiva, perché UbiBanca per esempio va molto bene, più 3,7, Saipem recupera il 3,4%, come in pregiro il 3,3 lo recupera Parmalat, il 2,90 l'Automatica, il 2,8 la Popolare di Milano, il 2,7 Autogrill, il 2,6 Tenaris, bene anche Pirelli, più 2,6%, e Mediaset più 2,4%, A2A 2,5% di rialzo, Geox più 2,2 come Prismian, 1,5 punti per Fondiaria, l'1,3 per Mediolanum, l'1,1 per Eni e anche per Terna. Dicevo, quindi senza l'effetto Unicredit sarebbe stata un'altra giornata anche a Milano, perché Parigi guadagna l'1,4, Bruxelles recupera poco rispetto al tonfo, ma insomma il 2,2 come Amsterdam, Francoforte è in questo momento invariata, Londra guadagna 1,5 punti, ma soprattutto è molto forte l'America, più 2,3% il Dow Jones, che si è riportato stabilmente sopra i 10.000 punti, e il Nasdaq più 2,90%. Questo per quello che riguarda l'andamento odierno. C'è poi un dato assolutamente sorprendente, e mi riferisco all'euro. Perché? Perché l'euro è a quota 1,40 nei confronti del dollaro, e questo significa in sostanza che c'è stato un indebolimento notevole, netto, fortissimo dell'euro nei confronti del biglietto verde, ed è chiaramente il portato di quanto accaduto ieri in Europa, oltre che in America, e il segnale che l'Europa non riuscirà ad essere immune da questa crisi. Addirittura c'è chi inizia a ragionare e ipotizzare una banca centrale europea che, molto sensibile alla variabile tedesca, potrebbe anche arrivare ad abbassare i tassi di interesse. Staremo a vedere. Non c'è molto altro oggi, anche oggi vi risparmiamo all'Italia, poche le novità. C'è un dato invece importante sull'inflazione che ha frenato per la prima volta dopo mesi, ma soprattutto ci sono dati importanti, notizie importanti sul tavolo dei contratti, la riforma del modello contrattuale, il no della CGIL. Andiamo con ordine, raccontiamo come stiamo facendo da giorni la giornata delle borse, cosa è successo questa mattina dall'Asia in poi, e poi vi racconteremo invece le altre notizie in breve. Quindi partiamo adesso con un brevissimo riepilogo di quello che è accaduto da questa mattina all'alba fino adesso. Questa mattina malissimo tutte le borse asiatiche, Tokyo meno 4,12%, la banca centrale giapponese che inietta sul mercato 20 miliardi di euro di liquidità. E la chiusura è da effetto domino, Tokyo appunto meno 4,1%, Hong Kong meno 2,4%, Shanghai per fortuna era chiusa, Taiwan meno 3,5%, Bangkok meno 2,94%. Aprono male anche tutte le borse europee, Milano apre in calo di 2,5 punti, Ma poi dalla Francia, dal Francia, dal Belgio, dal Lussemburgo arriva la notizia che Dexia, il colosso assicurativo franco-belga, avrà un'iniezione, riceverà liquidità per 6 miliardi e mezzo grazie all'intervento dei governi federali e regionali del Belgio, della Francia e del Lussemburgo. Ciononostante anche Parigi apre in ribasso del 2%, Unicredit inizia a diventare il caso di borsa anche oggi perché apre con un calo del 5,6%. Nonostante il numero uno Alessandro Profumo abbia scritto ai dipendenti siamo assolutamente fiduciosi, il gruppo è solido ma non c'è nessun motivo per temere, questo non ha tranquillizzato i mercati e a questo punto il tema è più sulla fiducia che sul numero o sul volume di pezzi scambiati. Non riesce ad aprire invece Mosca è la borsa in questo momento più fragile, o non apre per eccesso di ribasso o non riesce ad aprire per eccesso di rialzo. Anche oggi, su ordine dell'autorità federale, la borsa moscovita non ha aperto. La BCE poi verso le 9:30 inietta altri 30 miliardi di dollari di liquidità. Sono prestiti, lo abbiamo spiegato molte volte, a breve, che servono a garantire al sistema il fatto che non verrà meno la richiesta di denaro. Visto che le banche tra di loro non se lo vogliono prestare, ci pensa la banca centrale. Altrimenti il sistema andrebbe completamente in palla, si ingripperebbe, per usare un termine poco finanziario, e avremmo sì il credit crunch, ossia la crisi di credito. Le banche garantiscono che se tu hai bisogno di liquidità a breve per ripagare debiti, per chiudere posizioni, loro questa liquidità te la danno, poi se la fanno ritornare dopo alcune settimane a tassi di sconto agevolati. Nel frattempo Dexia era sospesa dalla quotazione in borsa su richiesta dell'autorità delle Consob, sia francesi che belga. E poi alle 11 arrivano le dimissioni in blocco sia del presidente Pierre Richard che dell'amministratore delegato Axel Miller, che hanno appunto presentato le dimissioni tirando le conclusioni della crisi finanziaria attuale e del suo impatto. A metà mattinata la borsa europea tira il fiato, prima Londra e poi Amsterdam vanno in positivo, Dexia viene riammessa alle contrattazioni, balza del 13% a Parigi. E poi inizia la riunione sulla crisi all'Eliseo in Francia, mentre i mutui, il tasso Euribor a un mese, che serve anche per capire quanto costa prestare denaro a un mese, quindi vale anche per i mutui, ha toccato il record del 5%. Ma in Gran Bretagna HBOS, che è il maggior operatore in Gran Bretagna nei prestiti per la casa, va a picco, perde il 17% e molto di sotto, con un titolo che va e una capitalizzazione che va molto al di sotto di quanto si era impegnati a pagare i Lloyds per rilevarla. In Irlanda, nel frattempo, il governo irlandese decide di garantire i depositi e i prestiti di 6 istituti bancari, oltre che le posizioni di 2 società di costruzioni. Questo fa schizzare l'indice a Dublino, più 25% per quello che riguarda il settore bancario delle costruzioni. Ma insomma, il governo ha preso una misura in Irlanda, paese piccolo per quanto quello che volete, ma una misura che ricorda assolutamente la crisi del 29, si è fatto garante di tutti i depositi, delle obbligazioni, di tutto il debito senior degli istituti bancari. Cioè si è fatto garante di una cosa che in Irlanda vale 500 miliardi di euro. In Irlanda, ora se pensiamo che il PIL irlandese è 190 miliardi, si è fatto garante di una somma che vale 2,5 volte il PIL irlandese. Sarebbe come se da noi il governo si facesse garante di una cifra che vale 3.000 miliardi di euro, visto che il nostro PIL è 1.600 miliardi di euro. Anzi, di più. Anche 4.000 miliardi di euro. E poi l'Unione Europea dice che l'America si assuma la sua responsabilità. Questa crisi è colpa dell'America. Intanto è fuga dal mercato dei mutui. Le banche stanno attingendo e attingono sempre più ai prestiti di emergenza della Banca Centrale Europea. E il ricorso a questi depositi è volato al record di 44 miliardi di euro. Poi la nota diffusa dal nostro Ministero del Tesoro, che dice che la liquidità delle banche in Italia è adeguata, le conseguenze sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute. E si arriva fino al pomeriggio in cui l'Europa è incerta, peggiora con Francoforte, ma soprattutto inizia a peggiorare Unicredito, che perde il 4% alle 14 e verso le 14, adesso è arrivata a perdere oltre il 10%, mentre dall'America Obama propone di assicurare i conti in banca fino a 250.000 euro, una misura anche questa che vede l'intervento dello Stato a garantire i depositi bancari, un segnale che la crisi si sta spostando su un livello ancora più pericoloso. Non stiamo più parlando solo di mutui e di strumenti particolarmente complicati, sofisticati, creativi, robaccia. E poi l'appello di Bush, ne parleremo più avanti nel corso del programma, che arriva alle 15. Doloroso e duraturo il danno economico che arriverà all'America da questa crisi se il Congresso americano, dice Bush, non passerà il piano da 700 milioni proposto dal Tesoro. Il nostro ministro Monti nel frattempo giovedì riferirà in aula alla Camera, il resto è cronaca di questa giornata e dell'andamento dei titoli in borsa. Adesso io vorrei rapidamente fare un paio di cosiddette headlines e quindi di notizie in breve di questa giornata, poi passare a parlare anche di una cosa positiva, un sondaggio che è uscito sulle piccole imprese italiane, sono molto più fiducioso di quanto non ci si attenda, e poi apriremo la pagina mercati, crisi, con tutto un insieme anche di osservazioni. Vi dico subito quale sarà il taglio di oggi: è sbagliato a nostro avviso continuare a chiamarla crisi dei mutui americani, bolla immobiliare. La bolla immobiliare in questa crisi gioca una parte marginale, anche perché se uno non paga più il mutuo, la casa te la prendi in pignoramento. Ma quando la carta diventa carta straccia e vale zero, non hai più nulla da pignorare, quindi la crisi è tutta di carta e molto meno di mattone. Anche Marchionne, numero della Fiat, oggi ha rassicurato sul sistema Italia e sulla Fiat. Non arriveranno danni eccessivi alla Fiat, il titolo ne ha risentito, ma il nostro sistema è diverso, è inutile avere atteggiamenti da panico. E su questo è intervenuto comunque anche il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha detto: la politica non lasci da sole le aziende di fronte a questa crisi. Già alcuni segni importanti di rallentamento ci sono, si teme una recessione, è necessario che ci sia una presa di posizione comune forte delle istituzioni europee e della Banca Centrale Europea. E anche dal punto di vista del governo è necessario che ci sia una politica forte a supporto del sistema imprenditoriale italiano, perché in una condizione di questo tipo è fondamentale che alle aziende non manchi il credito. E ancora per quello che riguarda i dati sull'inflazione nell'area euro, è scesa al 3,6% a settembre, i primi effetti del petrolio che viaggia e ha viaggiato vicino ai 100 dollari al barile in questi mesi, in Italia ha frenato al 3,8%. A settembre, quando l'inflazione d'agosto fu del 4,1%. Sotto pressione pane, pasta, libri e scuola, cala invece il prezzo del gasolio. I contratti, domani sarà il momento della verità, ha detto oggi il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, ma dalla CGIL arriva una doccia fredda. Infatti il segretario Epifani nel corso del direttivo di Corso Italia ha detto: il tavolo con Confindustria si è esaurito. Restiamo in tema di economia reale, così non facciamo oggi un'altra ora e mezza solo di mercati, visto che la situazione è leggermente più tranquilla. Milano sta perdendo adesso mezzo punto percentuale. La Fondazione Fiera di Milano ha interpellato 5.000 piccole e medie aziende italiane, da cui è emerso che, nonostante questa crisi, lo scenario non sia necessariamente così negativo né loro così pessimista. E stiamo parlando di 5.000 piccole e medie imprese dei settori trainanti per il nostro export. Ne parliamo allora con chi ha commissionato questo studio, ossia il presidente della Fondazione Fiera di Milano, Luigi Roth. Buonasera. Buonasera. Dunque, Presidente, prima di arrivare ai risultati di questa ricerca, un commento su quanto sta capitando, perché lei scrisse in un articolo di un paio di mesi fa, se non ricordo male, sì, questa crisi assomiglia molto a quella del 29 con qualche distinguo. Si era a luglio, già la situazione era poco bella, adesso direi che è decisamente brutta. Lei ritiene che sia una crisi ancora simile a quella del 29 o abbiamo superato, diciamo, per effetto, per volume, quella del 29? Beh, io sinceramente già in allora dissi non mi pare il 29. In realtà la situazione è obiettivamente diversa. Da quell'intreccio diabolico tra istituti bancari e industria e settore delle aziende non ne siamo né dentro né fuori, siamo in un altro momento, soprattutto distinguendo situazioni d'oltremare, situazioni europee. Quindi direi che la crisi del 29 è stata una cosa diversa, anche perché io credo che la consapevolezza di potercela fare, tutto sommato, soprattutto nelle piccole e medie imprese che sono il vero spina dorsale di questo paese, c'è una serie di sensazioni, non dico eccitanti di ottimismo, ma certamente propense a dare fiducia ai propri settori, alla propria azienda e anche al sistema paese. Quello che stupisce in questo momento è il rischio di contaminazione anche l'Europa. Lei ritiene che sarà a un certo momento inesorabile, che questi 1.300 miliardi di svalutazioni previste, 500 ci sono già stati, ma insomma, mancano l'appello, almeno la metà, come il latte contaminato, l'abbiamo definito noi, siano arrivate anche in Europa e quindi vadano a penalizzare anche il sistema bancario europeo? Ecco, si tratta di capire a chi metterle in testa, perché se in realtà sono gli istituti bancari in modo diretto che sulle loro posizioni in realtà risentono di queste situazioni negative, è un conto, ma se in questo, come in altre occasioni, lo sport è stato quello di collocarlo ai terzi, ai quarti, ai quinti, che inconsapevoli e innocenti prenditori in realtà si sono trovati con della carta, non dico straccia, ma quasi, e allora la situazione è diversa, anche perché questo poi direi inficia ulteriormente una situazione dove la fiducia, che invece è un ingrediente fondamentale per fare una torta seria, allora viene meno al sistema, diventa un fatto generico e uno al mattino si alza e dice piove, è colpa della situazione generale, del governo, del padre eterno, non si sa di chi, ma è il peggior modo per affrontare comunque dei momenti di difficoltà. Sì, purtroppo devo dire che alcuni di questi strumenti, mi riferisco soprattutto all'obbligazione Lehman Brothers, poi vedremo le altre, sono state collocate anche alla clientela e vedremo adesso le banche, ci sono già diverse posizioni, come ne usciranno. C'è chi ha detto, beh, se sono della clientela non sono nostri, e c'è chi ha detto no, andremo a rinegoziare, vediamo cosa succede. Mi sembra che il problema sia solo all'inizio. Le chiedo un'ultima cosa e poi arriviamo al tema della vostra ricerca, che è finalmente, viste queste giornate, un po' rappresenta un'iniezione di ottimismo. Il prossimo fronte, secondo molti, è il fronte delle amministrazioni locali. Allora, siccome lei presiede la Fiera di Milano, che oltre che essere un'istituzione simbolo della città, è una vera e propria grande azienda di questo paese, le chiedo, ed è partecipata, per cui lei teme che i 35 miliardi di euro stimati siano veramente reali, e cioè che le amministrazioni comunali e regionali, un po' per ignoranza, lo dico senza nessuna offesa, un po' per ignoranza, proprio latino del termine, perché ignoravano la capacità dello strumento, un po' perché convinte, un po' per avidità, insomma tutto un insieme di motivi, si siano esposte e da lì possono arrivare i danni peggiori più che dal mondo bancario? La quantificazione di questo rischio pericolo è ancora tutta da definire. Noi come Fondazione Fiera Milano, Fondazione è la capogruppo, no? Certo. di tutte le nostre società, proprietà immobiliari e partecipazioni, abbiamo una serie di osservatori per cui direttamente o indirettamente vediamo quello che succede nell'intorno. Io ho avuto l'occasione fino all'anno scorso di essere vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti, che per sua natura raccoglieva attraverso gli sportelli delle poste e collocava per le infrastrutture alle istituzioni locali una serie di mutui assolutamente al di là di questi rischi. Purtroppo devo dire, senza fare dei cenni precisi, che in molti casi le amministrazioni hanno preferito farsi servire, tra virgolette, un piatto che formalmente sembrava più interessante, più appealing, da banche di quel tipo che hanno da loro blasonate, hanno a loro mostrato, fatto vedere, eccetera, eccetera, dei vantaggi che non avevano. Lì però bisogna che le regole vadano osservate, non si può pretendere che si parli arabo a gente che parla italiano o inglese a gente che parla solamente un dialetto. Per intenderci, bisogna essere onesti nel proporre le cose che si propongono e anche attenti all'interlocutore con cui si parla. Cioè lei mi sta dicendo che da un lato ci può essere stata anche della leggerezza, dell'errore di valutazione nelle amministrazioni comunali e regionali, ma se io arrivo e ti racconto uno strumento e tu ti fidi, perché è come essere dal medico, delle volte uno del medico a un certo momento deve fidarsi, ci può essere anche una corresponsabilità. Secondo lei la soluzione, con questo la chiudiamo, la soluzione in molti casi sarà una causa legale? Perché io immagino il comune che scopre che invece che avere 1 miliardo di euro di linee di credito per via delle svalutazioni, del fatto che non riesce a ripulire questa robaccia, ha 1 miliardo di euro di svalutazione. 1 miliardo per un comune significa la differenza tra gli asili, gli assistenti sociali, le strade no perché sono delle province, ma insomma un insieme di servizi alla cittadinanza. Lì, secondo lei, uno se si sente abbindolato, tra virgolette, va in causa legale? Beh, può essere uno strumento di prima battuta, io però spero proprio che l'intelligenza di tutti e dei singoli sia quella di arrivare a delle soluzioni come dire discusse e concertate, perché altrimenti perdono tutto, perdono sia quelli che hanno fatto finta di prestare i soldi che quelli che l'hanno ricevuto e in realtà si trovano dei debiti invece che dei soldi, quindi dei costi e delle sopravvenienze negative e passive molto pesanti su questo. Allora facciamo una cosa, adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi parliamo anche di questo vostro rapporto, perché diciamo io non volevo interrogarla solo sulla crisi, sul ruolo degli enti locali. Vorremmo ogni tanto anche dare qualche iniezione di fiducia. Certo, Unicredito adesso perde il 15%, capirai. È un rapporto bello fatto con i settori forti del Made in Italy, dicevo 5.000 imprese, ne parliamo dopo il meteo. Meteo, a chi ci chiede che cosa vuol dire crisi di carta? Avremo modo di parlare anche di questo oggi. Dai dati che abbiamo a disposizione è sbagliato continuare a parlare di crisi della bolla immobiliare americana. La bolla immobiliare americana e i mutui concessi, anche quelli ad alto rischio, pesano per una marginale parte in questa crisi. La crisi è di carta, cioè di strumenti derivati, di cartolarizzazioni, di strumenti di prodotti strutturati, ma non è dovuta alla casa, anche perché il mattone, per quanto può crollare, comunque le mura poi te le ricompri, se sei una banca, te le pignori. Quindi attenzione a farvi fuorviare. Il danno è stato fatto dai geni dell'ingegneria finanziaria. Ma vorrei concludere il ragionamento che stavamo facendo con il presidente della Fondazione della Fiera di Milano, Luigi Roth, e quindi sentiamo i risultati decisamente più positivi di ogni attesa di queste 10.000 interviste a 5.000 aziende e a 4.000 visitatori e 1.000 consumatori nei tre settori chiave del Made in Italy: arredamento, moda e meccanica. E tra l'altro l'80% di queste aziende ha meno di 50 dipendenti. Vediamo cosa hanno risposto. Nel bel mezzo di una crisi che in tutto il mondo sta facendo tremare colossi con fatturati miliardari e decine di migliaia di dipendenti, Fiera di Milano è andata a tastare il polso alle nostre piccole imprese, scoprendo un po' a sorpresa che il clima non è poi così fosco. Tre i settori presi in esame: arredamento, moda e meccanica, vere e proprie punte di diamante del Made in Italy, con aziende da meno di 50 dipendenti a farla da padrone. Due invece gli indicatori utilizzati, ovvero la percezione da parte dell'imprenditore dello stato di salute della sua azienda e dell'intero settore, e l'impegno nell'innovazione intesa come investimenti di soldi e personale nella ricerca e lo sviluppo. Vediamo dunque cosa è emerso. Tra le PMI dell'arredamento il clima di fiducia resta positivo, sebbene il rallentamento dell'economia nazionale ed internazionale abbia pesato sul 2008. Il dato di quest'anno è infatti più basso rispetto al picco 2007, che fu raggiunto grazie a un exploit di fatturato ed esportazioni. rallentano anche gli investimenti in innovazione, che tuttavia si mantengono su livelli relativamente alti. Capitolo moda. Anche qui il clima di fiducia rimane buono. Archiviato il terribile biennio 2004-2005, quando il settore accusò l'esplosione della concorrenza asiatica, la moda si muove ora stabilmente lungo un sentiero di moderata crescita. L'impegno nell'innovazione si conferma forte, anche se lo sforzo maggiore è stato compiuto nel biennio 2006-2007, quando le produzioni italiane sono riuscite a riposizionarsi su fasce qualitativamente più alte e meno esposte alla concorrenza dei paesi asiatici. Infine, la meccanica, settore che ogni anno garantisce alla nostra bilancia commerciale un surplus di oltre 40 miliardi di euro. Il peggioramento del quadro economico sembra per ora aver intaccato solo marginalmente il clima di fiducia delle aziende, che hanno reagito prontamente alle avvisaglie di difficoltà, incrementando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Indicazioni complessivamente confortanti che spiegano perché alla domanda sulle prospettive dei mesi a venire, le piccole e medie imprese interpellate abbiano risposto dando per scontata una fase di difficoltà da qui a fine anno, ma scommettendo su una ripresa già all'inizio del prossimo. Quindi un quadro, lo diceva anche la scheda, meno fosco, più positivo, che va e fa il paio con quanto vediamo nei dati sull'export, Presidente Roth. L'export va bene, ha avuto qualche difficoltà, ma insomma con un euro così forte, il costo del petrolio, anche il dato di luglio ha registrato un saldo commerciale che è il migliore dal 1991. La battuta è facile, forse scontata, però c'è un solco, secondo lei, tra l'economia reale e la finanza creativa in questo momento? Spero di sì, da un lato, quindi spero che non ci sia una connivenza diabolica e che la seconda, cioè questa finanza creativa, vada a dar fastidio fortemente all'economia reale. Dall'altra parte però c'è certamente una connessione che provoca alla fine costo del denaro superiore, incapacità di ricorrere facilmente al credito, soprattutto per i piccoli, poca assistenza all'esportazione, nonostante quello che vediamo, eccetera. Quindi dobbiamo tenerle ben divise queste cose, fare in modo che gli istituti bancari, che peraltro sono dei momenti importanti, delle situazioni importanti nel nostro settore economico, dei nostri settori economici, siano talmente attenti da distinguere, come sempre hanno fatto, ho tentato di fare, le aziende che hanno i problemi veri, endemici, da quelle che invece in realtà investono per lo sviluppo e quindi come tali vanno assistiti. Faccio un'ultima domanda che stiamo facendo a tutti gli ospiti in queste settimane parecchio tempestose. Secondo lei, alla fine della Buriana, però, ci sarà una rivincita della banca tradizionale, della banca che raccoglie sul territorio, eroga prestiti sul territorio, valuta il rischio dei prestiti erogati? Territorio non voglio dire solo quella provincia, ma insomma non voglio neanche dire la banca che raccoglie sul territorio e poi investe a Hong Kong piuttosto che a Wall Street, cioè che mantiene un rapporto tra sviluppo economico e suo ruolo in questo contesto rispetto alle banche che si occupavano di strumenti complicatissimi ma che di fatto non esistono più, perlomeno 4 su 5 hanno di fatto chiuso. Direi che già nei fatti è così. Per fortuna questo sistema bancario italiano, che trae origine dalla sua, diciamo pure, saldezza da una vecchia legge anteguerra, fa in modo quindi di proteggere i depositanti in modo tale che il sistema faccia fronte a dei momenti di patologia forte, e mostra tutta la sua autonomia, vado per sintesi, rispetto a delle bolle che invece hanno dimostrato tutta la loro debolezza. Quindi l'intermediazione, perché come ben si sa il vero banchiere era quello che prestava i suoi soldi, ecco, ora si intermedia, ma intermedia con attenzione e rispetto, perché i soldi degli altri sono ancora più importanti dei propri. E in questo senso noi stiamo dando certamente come sistema bancario un esempio di grande forza e di grande consistenza. Quindi paradossalmente potrebbe poi alla fine di tutto uscire una lezione di maggior concretezza, se mi passa il termine, del sistema bancario, che torna a fare la banca tradizionale. Non tutto il male, anche se il male in questo momento è tanto, sarebbe a quel punto venuto per nuocere. Sì, bisogna vedere che i costi siano assorbibili e siano contenibili, non ammazzino anche il sistema, non ci facciano buttare via oltre che all'acqua anche al bambino, come si suol dire. D'accordo con lei, grazie al presidente della Fondazione Fiera Milano, Luigi Roth, nostro ospite oggi. Grazie, buonasera a tutti. E adesso, come d'attese, i mercati finanziari, la giornata di borsa, buona in Europa, decisamente buona in America, non così buona in Italia. Il motivo si chiama Unicredit, i mercati allora. Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo subito dalla differenza italiana. Meno 1% oggi l'S&P MIB, meno 0,50% il MIBTEL, mentre a parte Amsterdam e Bruxelles che recuperano il tonfo di ieri, che recuperano in parte, più 3% non basta, ma Parigi più 2%, Francoforte più 0,40%, Londra più 2,3%, l'America guadagna 2,5 punti percentuali. Insomma, noi maglia nera anche oggi, e nonostante alcuni titoli siano andati particolarmente bene, mi riferisco a Mediaset, poi vedremo perché, ma Parmalat più 4,60%, Autogrill più 4,20%, Popolare di Milano più 4%, Mediolanum più 3%, Snam più 3%, Impregilo più 2,80%, L'Automatica più 2,70%, A2A e Mediaset più 2,60%, però Unicredit ha chiuso con un meno 12,7%, 2,55 euro. I timori su Unicredit e il ragionamento che fanno gli operatori. Sì, ha chiuso, come hai detto tu, in calo di questo 12%, ma peraltro dopo più sospensioni per eccesso di ribasso, soprattutto sul finale. E tra le sale operative sono circolate mille voci, mille ipotesi, dall'aumento di capitale che è stato più volte smentito nel corso delle ultime settimane a addirittura un avvicendamento ai vertici. Di sicuro la borsa appunto non preferisce stare alla larga dalle azioni di Unicredit, ormai da più sedute. Peraltro quotava, capitalizzava più di Intesa San Paolo, mentre adesso capitalizza largamente al di sotto. I titoli ai minimi di oggi, 2,55 euro, sono praticamente ai minimi storici da quando è nata Unicredit, ovvero dal 1998. Però, allora, abbiamo sempre detto che, così come mettevamo in guardia dai rischi di mercati che continuavano a crescere del 20% e alcuni ascoltatori dicevano che portavamo sfiga, adesso non vogliamo fare quelli che giocano al massacro, perché in tempi non sospetti, lo dico a chi scrive, abbiamo detto che il mercato così era insostenibile, più 20% ogni anno, dicevate che eravamo brutti, sporchi e cattivi. Mo vediamo chi aveva ragione. Unicredit, voglio dire, è una banca che ha metà delle sue attività, del suo fatturato, lo fa all'estero. Ha comprato Hypo Vereins Bank, è una banca solida, è la seconda banca in Europa. Perché tutta questa sfiducia? Perché è tanto operativa all'estero e si teme che, diciamo, il virus si sia preso in mercati est europei o nel mercato tedesco? Assolutamente sì, peraltro, come hai notato tu, è presente in Germania attraverso la controllata HVB e ovviamente la Germania non fa ben sperare. Proprio ieri abbiamo visto che Hypo Real Estate, la banca tedesca attiva soprattutto nel settore dei mutui, ha registrato un calo del 70% ed è stata salvata in extremis grazie all'intervento appunto di un pool di banche che hanno effettuato un prestito molto consistente. Quindi ovviamente l'esposizione internazionale di Unicredit finisce per penalizzare assolutamente le azioni. Da lì poi una serie di rumor, di ipotesi e il panico. Allora, anche qui il panico è sempre un elemento irrazionale, nervi saldi, anche perché ieri è perso il 10, oggi il 12,6. Attenzione, non è che vedremo, insomma, dire che il danno può essere pari al 20% della capitalizzazione di borsa di Unicredit mi sembra eccessivo, per quanto importanti possono essere le attività all'estero. C'è stata qualche dichiarazione, qualche intervento del numero uno Alessandro Profumo, perché in questi casi delle volte serve molto la presa di non lasciare le cose trascinarsi e delle volte anche avvilupparsi. Guarda, la vera presa di posizione è avvenuta ieri, è stata diffusa ieri sera attraverso una mail in cui l'amministratore delegato ai propri dipendenti cercava di fornire sicurezza, asserendo appunto che i coefficienti di liquidità della banca, sia quelli a breve che a medio termine, superano in maniera significativa i limiti approvati sia dal consiglio di amministrazione che quelli richiesti appunto dai regolatori. Evidentemente però questa rassicurazione non è bastata a Piazza Affari, che oggi ha letteralmente, si può dire a questo punto, massacrato le azioni, proprio perché sul finale sono state più volte sospese per eccesso di ribasso. Sì, tra l'altro perdevano oggi a metà giornata, a metà mattinata, perdevano il 4, il 5, cioè è stato un crescendo ancora più anomalo, visto che il resto dei mercati erano tutti positivi, cioè il titolo sospeso per eccesso di ribasso, ma soprattutto è andato peggiorando lungo la seduta e non viceversa, come magari uno poteva immaginare, cioè una brutta apertura per i timori e poi rassicurazioni varie e il titolo che va a migliorare. No, è accaduto l'esatto opposto. Ho spazio per un altro titolo sul fronte opposto, Mediaset. Ma è vero che circola voce che Warren Buffett voglia entrare in Mediaset? Guarda, sì, è stato scritto dalla stampa nel corso del fine settimana, evidentemente c'è chi ci crede, comunque circolano anche dei report positivi di Citigroup, evidentemente le azioni ne hanno beneficiato e sono salite del 2,6, ma peraltro durante della seduta riuscivano a mettere a segno anche progressi più consistenti. Sì, una cosa la devo dire su questi report. Ora, a me di ascoltare da anni report su altri titoli, vuol dire analisi sui titoli, di banche che poi sono saltate per aria loro stesse, beh, prima di giudicare gli altri, magari guarda in casa tua, per cui sarei quasi per fare un appello, non ce l'ho con gli analisti finanziari, ma facciamo in qualche modo una moratoria su questi report. Non parliamone più, visto che non riuscivate a capire cosa facevate in casa e giudicavate le case degli altri. Poi, quando vi sarete ripuliti, parlo anche di Citigroup. Allora poi parleremo dei report, visto che Citigroup, intanto che faceva i report agli altri, ha perso 43 miliardi di dollari di svalutazioni. Dunque io vedo alcuni messaggi al 349-238-6666 di chi dice: beh, quello che è successo è perché a forza di gridare al lupo, dite all'orso, poi il lupo arriva veramente. Questo è il massimo, cioè adesso la colpa è di chi diceva: attenzione, c'è un mercato troppo finanziarizzato, troppo speculativo, con rischi, troppa liquidità in giro, con prezzi troppo elevati. Cioè, questa è la colpa? È averlo detto? Sembra una spiegazione incredibile. La spiegazione che è più accettabile è che questa bolla è una bolla che si è generata all'interno dei grandi gruppi bancari, delle grandi banche di investimento, che in maniera del tutto irragionevole e a questo punto anche irresponsabile hanno continuato a esporsi senza avere la solidità finanziaria alle spalle. Non è la bolla del mattone, lo ripetiamo, è la bolla delle banche. Se voi andate a vedere che cosa ha contribuito in questi 4 anni a far crescere la borsa di Londra, di Milano, di almeno il 10% ogni anno, era il settore bancario, quello che ogni anno continuava a macinare utili, risultati, dividendi continuamente, anche se l'economia era ferma, anche se in Europa l'economia non andava bene, dopo 2 minuti le banche continuavano a crescere. Come mai? Evidentemente perché avevano introiti di carattere finanziario. Poi si è scoperto che era un castello di carta. Comunque ne parliamo fra un attimo ancora. Seat pagine gialle, -4,20, Eleonora. Sì, Seat ovviamente è stata penalizzata dal fatto che la società è molto indebitata, ci sono indiscrezioni anche sull'eventualità che debba rivedere le condizioni del debito, e questo ovviamente fa paura in un momento in cui logicamente si parla di crisi finanziaria mondiale. Ancora sui titoli, per quello che riguarda oggi l'andamento in borsa, dunque l'euro è scivolato a 1,4079, no? Dopo un livello di 1,44, 1,45. Ora, ne hanno approfittato solo alcuni dei titoli più legati alle esportazioni. Penso a Autogrill, +4,28%, e l'Automatica, che anche è un titolo molto presente in America, +2,80%. Mentre un titolo come Luxottica ha perso il 2,7%, Eleonora. Esatto, Luxottica che invece aveva tentato di rialzare la testa ieri, almeno nella prima parte della seduta, infatti i titoli erano ben comprati rispetto al resto del listino. Come dicono i trader, si tratta di un mercato molto tecnico, si tentano degli acquisti su dei titoli che magari si vede che hanno particolarmente sofferto e sono quindi su quotazioni severe nei confronti dei fondamentali, ma la cautela regna sovrana e quindi poi molti investitori preferiscono comunque magari portare a casa anche plusvalenze realizzate nell'arco di un'ora. È un mercato molto tecnico e molti titoli finiscono per virare continuamente al ribasso o al rialzo. Tra i titoli migliori, Parmalat. Ora io vi propongo una riflessione così di cui ragionavamo oggi. Il crack, dentro il crack Parmalat c'è in sedicesimi, in mignon, tutta o parte di questo crack finanziario a cui stiamo assistendo, perché anche nel caso della Parmalat saltarono i meccanismi interni di controllo, i revisori, le società di revisione, chi certificava i bilanci, le società di rating, il controllo dell'autorità di vigilanza. Il gruppo saltò per aria non perché non riusciva a vendere succhi di frutta e latte, ma perché si era esposto e indebitato in maniera abnorme. Ecco, crollò per colpa della carta. Lì dentro c'erano già i sintomi di questa malattia che stiamo attraversando. Forse un'immagine un po' forte, ma insomma l'Italia ha fatto da laboratorio anche in quel caso. Parmalat oggi però è andata bene, più 4,6. Sì, Parmalat è andata bene, ieri peraltro andava bene, poi ha chiuso in calo del 2%, o comunque un calo più contenuto rispetto a quello di Piazza Affari. Insomma, sono da due o più sedute che i titoli Parmalat registrano una performance migliore di quella del listino, e questo perché si sostiene che ci sia una cordata di investitori italiani interessati a rilevare una quota consistente dell'azienda, comunque inferiore al 30% del capitale, quindi non ci dovrebbe essere la necessità di un'OPA. Tra i nomi citati c'è Clessidra, c'è Intesa San Paolo, però per adesso si tratta solamente di indiscrezioni. Di sicuro i titoli salgono, va detto comunque che la società è una società che è liquida, ha cassa, a differenza di altre aziende che invece sono indebitate, quindi in questi momenti di crisi di mercato ovviamente viene valutato positivamente il fatto che l'azienda abbia cassa. Fiat meno 2,7%, Marchionne numero uno della Fiat dice la situazione finanziaria è solida. Il gruppo Fiat, nonostante un contesto di mercato difficile, continua a muoversi con velocità e con determinazione per costruire il proprio futuro. Ci sono cose che non possiamo prevedere e altre che non possiamo cambiare. Quello che possiamo fare è creare le condizioni per rispondere nel modo più veloce ed efficace ai venti del cambiamento. E per un'industria grande e complessa come la nostra è difficile ma è essenziale se vogliamo cogliere tutte le opportunità che si presentano. Gli obiettivi di quest'anno e anche quelli per i due anni successivi sono stati fissati nel novembre del 2006. Allora era impossibile immaginare la crisi che sarebbe arrivata nei mercati finanziari, prevedere il rialzo dei prezzi delle materie prime, immaginare una caduta così forte nel mercato auto dell'Europa. Era impossibile prevedere queste cose come tante altre. Eppure non abbiamo spostato i nostri obiettivi, li abbiamo confermati e li confermiamo tutti. Abbiamo una situazione finanziaria solida che ci permette di coprire i nostri fabbisogni. E questa è un'altra prova della capacità di leadership della Fiat di navigare in acque agitate mantenendo gli obiettivi fissi e immutati. Così Sergio Marchionne. Cosa può fare, cosa invece non può fare la Fiat di fronte a una crisi generale? Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Dopo il GR anche altri titoli, ma i casi principali li abbiamo analizzati. Nel frattempo UBS, l'unione delle banche svizzere, la più colpita dalle banche in Europa dalla crisi americana, 40 miliardi di dollari di svalutazione, ora il mercato teme che possa portare a casa altri 3 miliardi di nuove svalutazioni. E vai col liscio! Una parentesi però importante su un tema tutto italiano ma di carattere economico delicatissimo, ossia il tavolo per la riforma dei modelli contrattuali, quello in cui Confindustria chiede di arrivare a un modello più forte nella contrattazione di carattere aziendale, maggiore autonomia sul cosiddetto secondo livello e avere una contrattazione nazionale che dia la cornice, il riferimento, ma poi le singole aziende si giochino la parte variabile del contratto in base alla loro produttività e alla loro situazione economica. Domani sarà il momento della verità, ha detto oggi il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, a margine dell'assemblea dell'Anfia. Lo ha detto questa mattina, ed è una nota importante, prima che su questo tema poi intervenisse il leader della CGIL Epifani. Sentiamo Bombassei. Abbiamo esaminato le richieste che tutti e tre i segretari hanno dato negli incontri precedenti, daremo qualche risposta, quindi passo in avanti verso il sindacato c'è. Ovviamente non è che possiamo rinunciare a priori o a tutto, poi bisogna che ci sia veramente una buona volontà condivisa, se si vuol fare o non si vuol fare. Ecco, questa sensazione così precisa francamente non ce l'ho, soprattutto da parte di CGL. Quindi domani sarà il momento un po' della verità. Abbiamo fatto due incontri con tutta una serie di osservazioni, tre incontri, abbiamo recepito alcune osservazioni, le abbiamo viste, meditate, discusse e quindi qualche modifica politica. Come abbiamo detto fin dal primo giorno, il documento non voleva essere un diktat o dire è un documento prendere o lasciare, era una proposta e come tutte le proposte sono aperte a essere anche modificate. Chiaramente non possiamo pensare di cambiare radicalmente il senso del documento, se no forse rimarremmo come prima, forse era meglio. Quindi alcune cose sono state viste, alcune cose siamo disponibili anche a farle modificare e quindi domani vediamo se quello che abbiamo fatto è sufficiente a fare un approccio un po' più costruttivo o se invece sarà una chiusura. Spero che non si arrivi già con le risposte prima di leggere le proposte, cosa che non escludo a priori. Così il vicepresidente Bombassei di Confindustria, che ha la delega per le relazioni industriali questa mattina. Poco dopo anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha commentato, ha auspicato che la CGIL non si bloccasse nelle trattative, non bloccasse anche le trattative per via di veti interni. Cercheremo di fare di tutto perché anche la CGIL comprenda questo tema, non si fermi davanti a veti interni. Non sarebbe accettabile rinunciare a un ammodernamento delle relazioni in un momento così drammatico dell'economia e della finanza. E però la doccia fredda, magari parziale, ma sicuramente fredda, arriva a metà giornata quando il leader della CGIL Epifani, nel corso del direttivo della CGIL, dice la trattativa con Confindustria ha esaurito il suo significato. Dobbiamo rilanciare la nostra piattaforma unitaria e chiedere formalmente l'allargamento del tavolo di confronto alle altre rappresentanze datoriali. È una vera gelata. Poco fa di questo ha parlato anche il ministro welfare Maurizio Sacconi. Sentiamolo al microfono la nostra Elisabetta Fiorito. Io dico solo che guai a noi a restare ancorati ad un sistema che nel 1997 il ministro Giugni, padre dello Statuto dei lavoratori, definiva assolutamente obsoleto, superato, bisognoso di immediata riforma. Sono trascorsi 11 anni da allora. Io credo che le parti debbano fare ogni sforzo per cercare di individuare i criteri di un nuovo modello contrattuale. Mi auguro che almeno un passo avanti possa essere compiuto. A questo passo avanti noi leghiamo anche la riproposizione della sperimentazione sulla detassazione dei salari di produttività. Staremo a vedere, ma sembra a questo punto tutto in salita l'accordo per riformare i modelli contrattuali del 93. Un'altra notizia di questa giornata economico-finanziaria positiva, la notizia riguarda l'inflazione. È sempre alta, ma è più bassa a settembre rispetto al mese di agosto. A settembre infatti i prezzi sono cresciuti su base annua del 3,8%, ad agosto erano cresciuti del 4,1%. Restano però in tensione i prezzi degli alimentari, in particolare pane e pasta. Tra l'altro la pasta a grano duro ha fatto più 33%, aumentano i prezzi dei libri scolastici, dei servizi telefonici, è calato invece il prezzo del gasolio. Chiusa questa parentesi con le altre notizie, dopo le informazioni per chi è in viaggio torniamo a parlare di crisi. Molti di voi continuano a chiederci di Unicredito, alcuni dicono avete fatto allarmismo. No. Rifiuto questa critica perché il titolo ha perso quasi il 13% oggi, in due giorni ha perso il 25%. Abbiamo detto anzi, attenzione a speculare su un titolo che cala in questo modo, per quanto sia la banca italiana più internazionale, più, con più attività e fatturato all'estero, il mercato la sta prendendo di mira, ma non mi sembra che al di là del dato di fatto vi sia stato alcun allarmismo. Sfortunatamente il piano è stato bocciato. Questo è avvenuto con un minimo margine di voti, ma posso assicurare ai cittadini americani e ai cittadini del resto del mondo che questa bocciatura non significa la fine del processo legislativo sul piano di salvataggio. Siamo in una situazione che richiede misure urgenti. Il Congresso deve reagire, altrimenti le conseguenze nei confronti della crisi saranno ogni giorno peggiori. La caduta drammatica della borsa, come quella alla quale abbiamo assistito ieri, può avere pesanti conseguenze per i fondi pensione e i risparmi dei cittadini. e se non agiamo, il danno economico può essere doloroso e durevole. So che molti americani sono preoccupati dei costi di questo piano, ma le stime prevedono che il costo del piano sarà inferiore ai 700 miliardi di dollari. Tuttavia non metto in dubbio che si tratti di una grande somma, ma abbiamo a che fare con un grande problema. Siamo di fronte a una scelta tra l'azione e la prospettiva concreta di ristrettezze economiche per milioni di americani. Il Congresso deve agire. La nostra economia dipende dalla decisione del governo e del Congresso. Prima risolviamo il problema, prima ci riportiamo in una strada di tranquillità economica e creazione di posti di lavoro. La base di Money dei Pink Floyd ci sembrava la più indicata per commentare l'appello di Bush. L'avete sentito, quasi un appello da clima di guerra. Attenzione, il rischio è doloroso e duraturo, il Congresso deve muoversi, la situazione peggiorerà di giorno in giorno. Un Bush preoccupatissimo si sarebbe forse dovuto muovere un po' prima, ma questa è la situazione in America, in cui il Congresso non vuole fare passare una misura da 750 miliardi di dollari per ora. Poco fa invece è terminato anche all'Aspen l'intervento del ministro Tremonti sulla situazione per quello che riguarda la stabilità del sistema bancario e finanziario italiano. Ve lo facciamo ascoltare subito. Si dice che il mercato ha qualche problema, ma però neanche lo Stato deve essere eccessivo. Per inciso faccio notare che è molto difficile per gli stati essere eccessivi in questo periodo. In ogni caso, la formula che ci si propone come arbitraggio è dobbiamo trovare un equilibrio tra lo Stato e il mercato. Ovviamente il compito per trovare questo equilibrio è affidato alla tecnocrazia, la cui notoria capacità di interpretare l'esistente molto oltre le più modeste capacità della politica, darebbe un nuovo ruolo alla tecnocrazia, quella di fare da arbitro tra il mercato, che ha i suoi limiti, e lo Stato, di cui si temono gli eccessi. Io non credo che il problema sia quello di definire, credo sia un errore storico, è un errore gravissimo. Il problema che abbiamo non è quello di definire il confine tra lo Stato e il mercato, ma in nome dei criteri e dei principi e del metodo che risale a quella antica parola ordo, il grande problema che ha la politica, che ha la cultura, non è il confine giusto tra Stato e mercato, ma il confine giusto tra ciò che è non etico e ciò che è etico. In mattinata invece il ministro Tremonti aveva rassicurato, la liquidità delle banche italiane è adeguata e comunque il Ministero del Tesoro sta costantemente tenendo la situazione in osservazione, sta osservando in maniera costante la situazione. Allora, vediamo se troviamo una risposta alla nostra affermazione iniziale. Professor Fabrizio Tonello, che insegna all'Università di Padova e si occupa delle istituzioni politiche nordamericane. Buonasera. Buonasera. Le chiedo di alzare solo un po' il tono di voce. Lei mi deve spiegare, numeri alla mano, perché è sbagliato dire che questa crisi nasce dallo scoppio della bolla immobiliare americana, e cioè le banche che hanno prestato a cittadini che probabilmente non erano a rischio i soldi per comprarsi la casa, i mutui ad alto rischio. No, certamente nasce da lì, questi famosi mutui cosiddetti subprime, significa semplicemente che si tratta di mutui concessi a persone che non avevano le garanzie o il reddito sufficiente. Questo è avvenuto da una parte perché il Congresso aveva fatto una politica per spingere alla proprietà generalizzata della casa, e quindi queste due famose istituzioni che sono state salvate, Fannie Mae e Freddie Mac, come erano soprannominate, avevano il compito per appunto di garantire i mutui ricomprandoli dalle banche che li concedevano. Questo in realtà ha provocato un'espansione del credito che non era giustificata rispetto alle capacità dei mutuatari effettivamente di... Ok, e questo è il problema della bolla del mattone. Quanto costa, secondo i suoi calcoli, la bolla del mattone e perché? Ma la bolla del mattone, secondo l'Università di Harvard, costa attualmente l'1% del totale dei mutui. Queste sono le case, pignorate. Pignorate. Siccome la situazione sta peggiorando, Harvard prevede che si possa arrivare al 2%. Quanto vale il 2% di tutti i mutui americani? Il 2% si aggira, sui 220 miliardi di dollari. Ecco, però allora si fermi qua un secondo perché abbiamo poco tempo, ma 220 miliardi di mutui sono stati erogati a rischio, ammettendo anche che tutti venissero, appunto, che questa sia la somma finale dei pignoramenti. Quando io pignoro una casa, non è che la casa non ha più valore. Voglio dire, magari perde il 10, 20, 30%, ma insomma ho sempre le pareti, le mura. Quindi di questi 200 miliardi, quanti secondo lei potrebbero essere recuperati dalle banche che hanno pignorato le case? Ma guardi, vedo una notizia di pochi minuti fa, l'indice dei prezzi delle case è sceso nuovamente del 16% rispetto all'anno precedente nel mese di luglio. Ci sono sicuramente molte case che possono perdere anche il 30, il 40 o forse il 50% del valore rispetto ai picchi speculativi della bolla, ma comunque nel peggiore dei casi il 50% del valore resta. Ecco, ammettiamo che le banche che hanno prestato soldi poi acquistano la casa di chi non la riesce a pagare, ci perdono il 50% del valore dell'abitazione, stiamo parlando su 200 miliardi di pignoramenti di 100 miliardi. Il Congresso, o meglio, Bush al Congresso ne ha chiesti 700. Mi spiega gli altri 600 a che servono? Beh, questa domanda dovrebbe essere indirizzata al ministro del Tesoro Paulson, che in realtà aveva presentato un piano fatto di 3 paginette in cui si diceva datemi soldi e poi ci penso io. Se andiamo a vedere un po' meglio cosa c'è dietro, l'unica spiegazione ragionevole è che in realtà le banche americane siano piene nelle pieghe dei loro bilanci di altri strumenti finanziari che sono portatori in questo momento di perdite catastrofiche. E si tratta essenzialmente da un lato di derivati e dall'altro di credit default swaps, sono due strumenti finanziari che essenzialmente scommettono sull'andamento del mercato, sono diventati negli ultimi anni di una estrema complessità, tanto che gli stessi banchieri non si rendevano spesso conto di cosa stavano facendo. E naturalmente queste perdite occulte che non sono ancora state tirate fuori, il mercato teme che ci siano. Allora, per concludere, quello che ho capito io è che da un lato il danno sul mattone è un danno di 100, stimiamolo in 100 miliardi di dollari, quello che le banche veramente perderanno. Che il danno fatto da questi strumenti di carta è 6 volte superiore, perché un conto è prestare soldi per comprare casa e vedere e dover pignorare la casa e perderci il 30-40%, un altro conto è girare questo prestito a una seconda persona guadagnandoci qualcosa, il quale la gira una terza persona, la quarta persona, la quinta persona, e quindi amplifichi la carta che gira. Se poi c'è anche un'assicurazione che ti assicura sul rischio di non essere ripagato su queste obbligazioni, si genera una piramide di carta che vale 6 volte il danno generato dalla svalutazione immobiliare americana. Professor Tonello, grazie, perché in questi momenti occorre anche fare chiarezza concettuale e chiamare le cose per il loro nome. Basta dire che questa è una crisi nata dalla bolla del mattone, è nata da apprendisti stregoni in gessato e gemelli. E con questo vi saluto, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.